dopo il semaforo scatenate l'inferno. Prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Innanzitutto bisogna conquistare il primo posto, perché il primo posto è molto importante. Innanzitutto al sorteggio, poi magari il sorteggio arrivando primi ci può capitare peggio, però sicuramente arrivando primi il Barcellona, il Real e il Bayern Monaco, che in questo momento sono le squadre più forti in Europa, sicuramente non le prenderemo. Sappiamo che si giocano tanto contro di noi e sappiamo che sarà una partita molto, molto difficile, molto, molto dura. Però anche noi ci giochiamo qualcosa che non è un obiettivo piccolo, ma un obiettivo grande. Non c'è assolutamente il pensiero alla Fiorentina. La Fiorentina avremo 4 giorni per preparare la partita, avremo dei giocatori che recupereranno. In questo momento bisogna, come sempre, pensare partita dopo partita, perché è importante domani venire via e dare seguito ai risultati positivi che la squadra in questo momento sta facendo. Ciao Pierluigi Pardo, come va? Ti piace Barbiere di Siviglia? Bueno, me gusta muchísimo el barbero de Sevilla, ¿no? El peluquero de Sevilla. ¿Y qué pasa? ¿Pasa todo bien, no? Ieri sera non è stata l'obertura degli spagnoli che parlano questa voce molto, no? Muy parlante. ¿Qué pasa con este partido del Sánchez Pizjuán con el equipo de Juventus que intenta ganar la primera posición del grupo? 800240024, siamo qui in diretta, sì. Anche in questo di festa, come sempre capita. D'altra parte, ma sai, noi stavo raccontando prima, io ormai ho perso completamente il senso delle feste comandate. Faccio delle cose, infatti mi dimentico i punti e faccio delle cazzate mostruose. L'altro giorno non trovavo un posto sul treno Roma Milano perché dico, ma che è successo? Pensavo l'Expo Sant'Ambrogio, invece no, era l'Expo è finito, e invece c'era il ponte, che poi uno, ma perché deve andare da Roma a Milano, o da Milano a Roma a fare il ponte? Comunque va bene, c'è mezza Italia in giro, li salutiamo tutti, mangiare pure alla faccia nostra, facciamo il lavoro più bello del mondo, quindi d'altra parte ci meritiamo oggi. Si gioca il Champions, bueno. Come pensai, domani commenterai la Roma, una partita mica facile quella della Roma. No, non sono così convinto che domani se la porti da casa come ma piace assolutamente no, domani è complicatissima, però ti dico anche che domani è una di quelle situazioni in cui è come quando ci provi con una, hai fatto tutte le cose che devi fare, alla fine se non ci sta, non ci sta. Ecco, quindi se domani dovesse uscire, vorrebbe dire che non sei, you're not good enough, non sei abbastanza bravo. E io sono ottimista, ma penso. L'ottimismo è il sale della vita. Però certamente non è facile. Perché la Roma gioca anche contro se stessa, non solo contro il Bate, che comunque è avversario rispettabile, l'ha dimostrato nel girone, ma gioca soprattutto contro le sue paure, sì. Contro le sue ansie, contro una certa tanti. Idea che contro l'hashtag mai una gioia, che è il classico hashtag romanista, no? Sul fatto che alla fine questa squadra fa tanto rumore, ci mette tanto entusiasmo, ha dei tifosi clamorosamente innamorati, ogni anno parte forte e poi alla fine però insomma non si guaglia mai, e domani la Roma deve guagliare. È chiaro che è un passaggio soltanto parziale, perché poi comincerebbe un percorso difficilissimo, e immaginare in questo momento la Roma capace di arrivare in semifinale o in finale di Champions fa un po' ridere. Però sono 20 milioni, però c'è il ranking, però c'è l'effetto psicologico che ci sarebbe sulla stagione, e poi comunque sappiamo che la Champions è una competizione strana, perché per esempio il Milan, che l'ha vinta nel 2007, aveva fatto un pessimo girone. L'Inter, che l'ha vinta nel 2010, aveva rischiato di uscire, ci fu il famoso rimontone. C'erano a Kiev, altre premesse, però erano altre squadre. Garcia ha parlato poco fa, tra l'altro, e ha paragonato la partita di domani con il Bate Borisov al derby. Sentiamolo. Perché, come l'ho detto, domani si giocherà sul fatto di dimostrare che la fame nostra veramente non ci può fare di più. Ci sono altre componenti, ma sappiamo anche che è una partita dove non c'è altro da fare che vincere. Questa partita è un po' come un derby, non si gioca, si vince questa partita domani e niente altro. Capito, così è la vigilia di Garcia. Tra l'altro, ultimo giro di Champions, come spesso succede, bellissimo e crudele. La Juventus a Siviglia per il primato, come sappiamo, questa sera. La Roma domani per, appunto, vivere ancora. Ma non solo, perché c'è Mourinho che non è in condizioni così che diverse da quelle di Garcia, perché gioca con il Porto e deve ancora strappare qualificazione, soprattutto primo posto. E poi in campionato affronterà il Leicester di Ranieri. Quindi doppio esame anche per Mourinho, come per Garcia, il Bate Borisov e poi il Napoli nel weekend. Van Gaal deve ancora qualificare lo United e non è facile. Non è facile, perché gioca a Wolfsburg ed è secondo nel girone. E sulla carta c'è il PSV che potrebbe superare, quindi deve vincere a Wolfsburg, che non, sì, che non è facile per niente. Della situazione incasinatissima del gruppo G servirebbe, insomma, un gruppo di fisici nucleari, economisti, perché è tutto un intreccio mostruoso, con la Dinamo Kiev che ha ottima possibilità di arrivare prima nel girone. Questo a proposito della Roma, certo, poi la possibilità sarebbe una su sette, però importante nelle coppe andare avanti. Vai avanti, anche la Juve l'anno scorso non aveva avuto nel girone un cammino particolarmente facile, no? C'era stato il passaggio cruciale contro l'Olympiacos in casa, quindi è importante adesso passare il turno, perché a febbraio può essere un altro mondo. Certo, ma sulle possibilità, gli incroci, eccetera, sai che sono le pippe mentali che fanno impazzire Cruciani. Io preferisco aspettare e mettermi lì, guardare, e insomma anche questo è il sale di questa competizione. Simeone a Lisbona con Atletico Madrid pure deve qualificarsi primo, 10-10 il punteggio in classifica, e anche Lisbona, Prato del Benfica, Stadio da Luz, mica semplice. Allora ci fermiamo un attimo per la viabilità, poi torniamo per approfondire il tema Juventus, che è tornata prepotentemente in corsa anche in campionato. Traffico. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Ovviamente Giorgio Yoga, il nostro autore, e con noi in questo giorno dell'Immacolata, con Paolo Corleone in regia, Pierluigi Pardo. Sì. Approfondiamo il discorso sulla Juventus con un tuo amico Massimo Zampini. Oh, Zampe! Ciao, buon pomeriggio. Come è andata con la Brienza? Tutto a posto, diciamo, la serata avete visto una parte voi e poi insomma. Che cosa? Ma che? Ma manco un caffè? Niente. Ma poi niente. È fidanzata, non si sa con chi, però è fidanzata. Una battuta, salutiamo Franceschina. Senti Massimo, io non ho grandi timori per questa sera. Mi aspetto una grande partita, una partita non semplice, però è già da un po' di tempo che la Juventus ha soprattutto una bella faccia, che è quella di Allegri, che in conferenza stampa ormai da più di un mese vedo determinato, concentrato, quasi cattivo, con lo sguardo giusto. E la Juventus, secondo me, rispecchia questa maschera di Allegri. Sì, è vero, io venerdì ero allo stadio, l'ho vista qua a Roma, e effettivamente è una Juve molto diversa, non tanto per il gioco, che non ritengo molto più divertente o spettacolare rispetto a qualche mese fa. Io ricordo Juventus Frosinone con 30 tiri in porta e poi è pareggiato in modo stupido. Era un altro film, quello? Esatto, sì, però adesso c'è un'autostima diversa, i nuovi sono strainseriti e tutti sono più sicuri. C'è Chiellini che al 93esimo va a esultare per una rimessa laterale sul 2-0, e questa forse sì, è la faccia di Allegri, che si è preso di nuovo in mano la squadra e l'ha resa di nuovo autoritaria, sicura di se stessa, e non era facile quest'anno vista la partenza. Su stasera dico solo una cosa, che il grande risultato in un girone così e con questo inizio dopo la rivoluzione è che questa sera noi la tensione l'abbiamo al massimo sul primo o secondo posto, non era affatto scontato e non va dimenticato. No, sì. ma la Juve, io credo che la Juve abbia tratto dalla Champions League l'energia e la sicurezza che vediamo in campionato, nel senso che io l'ho fatte tutte tranne Juve Mönchengladbach, poi le ho commentate tutte, e comunque anche Juve Mönchengladbach l'avevo vista, non me l'ho perso molto fra l'altro, che forse è stata la partita più brutta di tutte. Però ecco, per esempio mi ricordo Manchester City-Juve, che è stata una partita dove veramente sembrava che dovesse piovere, ma di brutto, anche perché il City aveva cominciato molto bene la stagione, E invece quella è stata la svolta. E poi anche la sicurezza con la quale ha battuto il Siviglia, la sofferenza comunque che ha portato al risultato a Gladbach. Cioè io credo che quando si parla di mentalità europea può sembrare uno di quegli slogan tipo non vendiamo sogni ma solide realtà o che ne so, agenti immobiliari, capito, agenti immobiliari, però è la verità, è la verità. Cioè comunque questa squadra ha adesso un'abitudine ad andare in giro per l'Europa che prima non aveva. Poi magari prima era un complesso, era anche l'imponderabile, perché io mi ricordo benissimo quella eliminazione col Galatasaray e sicuramente la Juve fu penalizzata e sfigata dalle circostanze, no? Penalizzata dalle circostanze e sfigata. Però sta di fatto che adesso non è più così e quindi è un'altra squadra e questo secondo me si comincia a vedere anche in campionato. Io sono con Allegri, l'ho detto, perché, sì, ma perché posso chiedere mi dà fastidio il ragionamento che quando facciamo magari della dietrologia o delle illazioni, a parte che Allegri sta continuando un percorso che secondo me è perfetto nella Juventus, non dimentichiamo. Perfetto. Vuol dire cappella, perfetto. E beh, l'anno scorso a un passo dal triplete. Insomma, è inutile ricordare la storia recente. Quest'anno si gioca questa partita e in campionato è rientrato dopo le prime difficoltà. Capito, è rientrato del tutto, secondo me. Totalmente. Sei punti sono nulla. Basta nulla, la classifica. Tutti gli scontri diretti in casa nel girone di ritorno. No, però dimmi una cosa, non è che ha cambiato faccia, atteggiamento, perché questo è una cosa che a me ha colpito. Ha blindato la difesa, trovato le meravigliose scintille da Dybala, insomma sul campo lo sappiamo, ma non è che sia successo questo perché ha incassato una qualche fiducia? Sì, ma anche perché Allegri è un uomo che ne ha viste di tutti i colori. Allegri è un incassatore, in questo mi ricorda Ancelotti, sì. Cioè mi sembra uno di quelli che cioè, di fronte a certe cose della vita tu puoi decidere di combattere, di cercare lo scontro, oppure di far finta di girarti all'altra parte e continuare a lavorare. A me sembra che Allegri sia in questa seconda scuola di pensiero, un po' come Ancelotti, insomma, di fronte ad alcune sollecitazioni che gli sono arrivate da Berlusconi, da Abramovic, sì. Voglio dire, non si è fatto mancare molto, ma anche sì. Perché stiamo parlando di presidenti che hanno investito un sacco di soldi, che hanno vinto tanto, quindi è anche ovvio che la pressione aumenti, no? E lui era molto... Ma secondo te nel momento più difficile qualcuno gli ha dato fiducia? Gli ha dato una fiducia di cui aveva bisogno? Ma guarda, sinceramente nel momento più difficile lui si è beccato la conferenza stampa, quella famosa del 14° posto, nella quale insomma invece si faceva, no? Gli si metteva ancora più pressione addosso. Quindi io dirti che abbia avuto questa fiducia, no, per me ne è uscito alla grande da solo. Massimo, cosa ne pensi? Scusa, 10 secondi, mi ricorderò sempre, prima di Juve Manchester City, vabbè, Lichtsteiner a Gladbach, così c'era più che altro la sorpresa sulle condizioni fisiche, ma prima di Juve Manchester, quando si è saputo che giocava Mandžukić, l'opinione prevalente era questo pazzo. Oppure sta provocando, addirittura sta provocando, vuole farsi cacciare, e parliamo di 15 giorni fa. Massimo, cosa ne pensi? No, sì, questo è vero, ricorda bene Pierluigi, ovviamente è difficile poi dire cosa dicessero gli juventini, perché sono veramente una massa quasi impossibile da generalizzare, ancor più delle altre tifoserie, però è vero che tantissimo sul web si trovava, cioè, sembrava davvero fosse una provocazione. La corrente la senti, anche se è una massa in grande, in forme, sì, quasi, sì, sì, la corrente la cogli, no? È vero, no, ma era così, era esattamente così, e sembrava che fosse una provocazione, ha ragione Pierluigi, mettere Manzo, che c'era, senza, siamo tutti dei fan di Morata, però insomma non stava mettendo un sedicenne. Quanto alla tua tesi invece, io sono abbastanza d'accordo, cioè io credo che è vero quello che dice Pier, cioè che pubblicamente non gli è arrivata nessuna forma estrema di garanzia, però lui sa che alla Juventus, almeno questa è la mia percezione da tifoso da quando la seguo, e in esatto, particolare una percezione mia, sì sì, no certo, lui sa che la Juventus gli dà fiducia, cioè lui sa che si affonda insieme e semmai si festeggia insieme, a fine anno si fidano le somme. Questo nelle altre società, i Mihajlovic e compagnia, secondo me non sono sicuri che arriveranno a fine stagione. Allegri lo sapeva già che sarebbe arrivato. Pierluigi, Dybala aspirante mostro, all'inizio ha avuto problemi, secondo me lasciarlo fuori era una follia già all'inizio, poi possiamo anche discutere di Morata che in questo momento fa, anche se gioca stasera, fa di fatto il panchinaro ed è una grandissima risorsa che non viene utilizzata fino in fondo, non so se per un gioco mentale di Allegri che lo vuole motivare. È uscita un'intervista sul País di cui parleremo dopo, Dybala è un killer, Morata è un giocherellone, eccetera, eccetera. Dybala però aspirante mostro in questo momento. Anche Dybala è cresciuto molto, ed è cresciuto molto attraverso, come viene in mente Capello, attraverso quel bastone carota di cui Capello è stato uno dei più grandi rappresentanti al mondo. È chiaro che alcune cose, insomma, io ci sono le registrazioni. Mi ricordo un giorno con Tacchinardi al telefono, non capivamo perché Dybala non giocasse. Quindi non è che abbiamo capito sempre tutto delle scelte di Allegri. Però alla fine, secondo me, bisogna fare anche un atto di fede e valutare nel complesso. Allora, nel complesso, la Juve è in corsa su tutto. Ha vinto la Supercoppa italiana, è qualificata e stasera ha ottima possibilità di beccarsi il primo posto. È tornata in campionato anche per demerito degli altri, però comunque ha fatto 5 vittorie consecutive, che sono un dato oggettivo. Dybala è cresciuto, cioè non stiamo parlando di un giocatore che è stato fatto fuori e che oggi ha perso di valore, anzi stiamo parlando di uno che è esploso. Probabilmente quelle 2-3 panchine che non capivamo lì per lì hanno fatto bene. Sarà poi così, forse anche, così anche per Morata, secondo te? Beh, Morata è già diverso, secondo me, perché Morata, cioè Dybala all'inizio di questa stagione era come Morata all'inizio dell'anno scorso, no? Era il ragazzo prodigio che doveva pian piano diventare qualcosa di importante. E Morata l'anno scorso è stato qualcosa di importante. I 7 gol in Champions League del 2015, soprattutto i gol pesantissimi. Bravo, esatto. Che delle grandi notti il di Champions. Specifico di quei gol. E quindi adesso fa un po' effetto, ed è il motivo per il quale in tanti non capivano la scelta di Mandžukić. Però insomma, io penso che alla fine lui si dovrà dare una mossa, nel senso, io non penso che Allegri sia autolesionista e non lo faccia giocare perché gli sta antipatico. Penso che, ma l'abbiamo visto comunque, abbiamo visto che Mandžukić in quelle partite lì, per esempio Juve Manchester City, ha partecipato, e anche successivamente anche a Palermo partecipa all'azione, con anche alla fase difensiva, con un'intensità che Morata non ha. Sì, così. Ecco, scusa, grazie per la traduzione. No, si fa un mazzo. Mi ricordavo che eravamo radio di Confindustria, però si fa un mazzo così, esattamente. Stasera avrà una possibilità Morata, che poi Morata sia in assoluto più forte, se per forza intendiamo più goleador, più elegante, più bello a vedersi, siamo penso d'accordo tutti, più talentoso, questo è, però il contributo complessivo che sta dando Mandžukić in questo momento è superiore a quello che dà Morata. Io per chiudere con Massimo Zampini torno a fare il dietrologo anche sulla scorta di un messaggio WhatsApp 3492386666 di Nicola. Alla fine la Juve ha la seconda miglior difesa. Ecco, torno a quella notte di Reggio Emilia dopo la gara con il Sassuolo, alle parole di Buffon, ad Allegri pesantemente esposto ad ogni vento. Quelle parole erano dirette chiaramente ai giovani, no? ai nuovi arrivati, però noto anche come la Juventus praticamente da quella sera abbia chiuso la porta difensiva. Esatto, lo dicevamo proprio anche ieri sera con Pierluigi, quello che all'inizio si diceva è che Buffon sembrava parlare ai giovani, eppure non era convincente, secondo me, da alcuni punti di vista. Lui ha voluto dare la sveglia un po' a tutti, all'ambiente, far capire dove erano finiti, però non erano i Dybala, lo stesso Alessandro e compagnia, secondo me, all'inizio a non aver reso come ci si aspettasse, bensì era qualcuno, appunto, mancavano Marchisio, Chedira e compagnia, e anche là quindi c'era un problema forte. Si giocava con Padoin centrale, a Roma siamo venuti Padoin, Sturaro e Pogba, c'erano problemi di formazione, però c'era anche, secondo me, una concentrazione, una fame minore apparentemente da parte di tutti, tanto che Blanchard salta, sì, si è sfortunato dopo 20 tiri, ma salta solo in area al 93esimo Juventus-Frosinone, certo. Quello non è il Dybala di turno che dovesse preoccuparsene troppo. Quindi secondo me quel giorno c'è stata la sveglia. Io devo dire anche una cosa, che quel giorno a Sassuolo, secondo me, anche prima della conferenza stampa di Buffon, c'è un secondo tempo a mio parere eccellente la Juve. Vero, no? Che è strano verissimo, dirlo, verissimo. Perché la 10 contro 11 10 contro 11 contro una squadra molto forte, la Juve veramente li mette sotto e fa 45 minuti da sola contro il Sassuolo, e non è semplice, perché là rischia anche un'imbarcata in un momento di crisi. E io credo che ricominci da quel secondo tempo ancor più, che poi certo psicologicamente il gol di Cuadrado eccetera eccetera aiutano tanto la Juve. Massimo, la Juve ha giocato molto meglio col Sassuolo nel secondo tempo che col Torino nel secondo tempo. Col Torino ha rischiato di perdere. Poi c'è questa cosa bellissima nel calcio: il calcio è anche questo, cioè il calcio è anche un gioco dove una squadra forte ma in quel momento fragile, in una partita dove veramente rischia l'imbarcata nel derby, e invece trova anche l'intuizione di Alessandro, secondo me. Chi è che ne parlava l'altro giorno? Guidolin mi pare ne parlasse. Quella è stata una grande intuizione di Allegri, fatta soprattutto per proteggere la squadra, togliere un attaccante, mettere Alessandro. Sta di fatto che però Alessandro da quell'azione lì con l'assist per Cuadrado diventa un fattore, insomma. Poi è chiaro che questo è un gioco certe liquido, volte sembra come diciamo sembra spesso, no? sembra cul-de-sac, c'era una volta il cul-de-sac. Invece Allegri secondo me è bravissimo anche a leggere le partite, le situazioni ed eventualmente a cambiarle. Ciao Massimo, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao Zampi. Ciao Massimo, ciao. Zampini, c'è la borsa anche oggi che è festa, capito? Sì, no, borsa, tra l'altro non va benissimo, dicono, no? Insomma oggi... Oggi è dura? Oggi so che... Cavoletti. Però magari, che ne so, nel frattempo sarà cambiato qualcosa. Borsa, vediamo, torniamo. 800 24 00 24 per intervenire. Ci accendiamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Convocati. Allora, tra i vari messaggi SMS e WhatsApp 349-238-6666 c'è chi scrive: Stefano da Firenze, la rivincita degli incassatori, pensate a Ranieri con Cecchi Gori e vedete cosa sta facendo all'estero. Vero. Renato da provincia di Imperia, già in linea, 800 24 00 24. Ma prima voglio farvi sentire una cosa che ha detto Ancelotti, poi ve ne faccio sentire delle altre, che è stato così prelevato a Vancouver, no, intervistato a Vancouver da Carlo Pellegrini per Mediaset. Ha detto alcune cose sul, ad esempio, suo futuro e sul fatto che gli manca qualcosa in questo momento. Cosa? Ero ben cosciente di voler prendere un anno dopo che sono stato esonerato dal Real Madrid e perciò la cosa che più mi manca è sicuramente il rapporto quotidiano con la tua squadra. E poi si parla di Ancelotti per il dopo Guardiola al Bayern di Monaco. Lo sai, se ne parla molto perché quando si muovono le panchine si parla molto degli allenatori che sono fermi e credo che in questo momento tutti stanno aspettando la decisione di Guardiola, dopodiché il Bayern o qualcun altro, dopodiché credo che qualcosa si muoverà. Giro di parole. E chiaramente essere accostato a una panchina tanto importante è molto stimolante, molto interessante. Bel giro di parole di Carletto. Beh, ma secondo me è un'ipotesi molto probabile. Sì, sì, sì. È probabile che Guardiola lasci, ed è probabile che Ancelotti è una scelta top. Bisogna capire se Ancelotti avrà voglia di continuare, perché può scegliere di continuare nel suo giro di, no, degli hotel a 7 stelle in giro per l'Europa, cioè delle squadre top, o se vorrà provare una di alternativa, una cosa diversa, che può essere la nazionale, che potrebbe essere la Roma, che potrebbe pure essere il Milan. Cioè, sì, ha detto di no, però non lo so. Vediamo. Sì, in questo momento mi sembra più probabile la prima delle due ipotesi. Ha detto di no perché non è il tempo, non è il momento, mi sento ancora, ho ancora voglia di lavorare tutti i giorni, cosa che ha confermato oggi. Però, insomma, sai, vincere in Inghilterra, vincere in Italia, in Francia, eccetera, può essere una, in Spagna ovviamente, può essere una, mica una brutta idea quella, certo, di completare ma Napoleone Ancelotti la conquista dell'Europa. A me il Bayern nel senso che è un campionato che il Bayern vince per decreto, esiste, per decreto legge, per decreto ministeriale, certo. E poi alla fine la stagione si riduce a una serie di partite. Monaco ci sta molto bella, ci sta molto bene, però insomma francamente non è, se facessi l'allenatore, ma fortunatamente non lo faccio per il bene del calcio mondiale, però voglio dire, se facessi l'allenatore mi attizzerebbe meno. Anche Paris Saint-Germain, tutto sommato. Ma infatti anche Paris Saint-Germain e di lì è passato Carletto. Sì, è anche vero che Paris Saint-Germain poi sta facendo comunque un viaggio verso una dimensione europea che invece il Bayern già ha preso, quindi fatto. Fra le due al limite Parigi, poi Parigi sarebbe un ritorno, non lo so, ma io penso che lui finirà al Bayern o finirà in Inghilterra in qualche squadra veramente top. Non credo ci siano grandi dubbi. Detto questo, anche l'altra ipotesi potrebbe essere romantica: la nazionale, il Milan, la Roma. L'idea di andare a prendere una squadra che in questi anni ha vinto un po' meno potrebbe essere. Da parte lui ha sempre detto che prima di chiudere la carriera di allenatore, sì, da Roma sarebbe passato. Però tanto sono passati 20 anni da quando l'ha detta la prima volta, no? Ragione, Carletto. Sì, però non so se perché l'abbiamo visto giocare, quando li abbiamo visti giocare sembra sempre non invecchino mai. Però credo che una volta Totti gli abbia detto una roba tipo strano. Sì, però sbrigati perché qua fra un po' finisco, insomma. ormai. Renato, buongiorno. Buongiorno. E volevo segnalarvi il mio conterraneo. Io sono sanremese, mio 22enne conterraneo Sturaro. E non vorrei gufarlo, però io lo vedo già in una squadra assieme a Marchisio e a Verratti. Tutto qua. In una squadra con la maglia azzurra, la intende? Sì, non volevo fare il nome dell'allenatore perché non è che sia simpaticissimo, ecco. No, però ci piace, sì, ci piace. Lo stesso campo a grande piace. Equilibrio alla Juventus. Sì, ha avuto chiaramente alti e bassi. È un giocatore, però, in questo momento è in una fase sicuramente molto positiva di alto. Ed è un buon giocatore. Ha avuto un impatto lo scorso anno in Champions League in notti complicate. Ha avuto un grandissimo impatto. Quindi. No, tutto il bene. Mi piace questo detto radio campanile. Vai, adesso il prossimo dalla Lucania per Zazza. No? Chi è il prossimo? Valeriano? C'è Valeriano? No, non c'è. C'è Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ah, bueno. Ciao Filippo. Dalla Lucania. La Lucania. Bueno, la Cagna, fra l'altro. Siamo qua a Siviglia. Cos'è la Cagna? Diciamo agli italiani, agli amici di chiamarsi bomber, che spesso utilizzano questa espressione per dei fili bassissimi. Eccoci. Però la Cagna invece in spagnolo è una cosa, no? Cos'è? Cos'è la Cagna? La birretta, esatto. La birretta, sì. La Cagna. La cagnetta. Che spesso, esatto, gli spagnoli prendono prima poi di bere il vino a cena, no? Io ormai lo faccio sempre, ormai sono diventato anch'io spagnolo, sì. Prima anche alcolizzato, invece ormai è stato sdoganato anche questo. Aria di grande partita, figlia. Llorente non benissimo questa stagione, ma carico, belle conferenze stampa. Prima della ieri alla vigilia, no, Phil? Bello come il sole, anche carico. devono per forza far bene, non gioca mai, è un'occasione, devono provare a vincere e sperare che il Borussia non vinca a Manchester. E atmosfera qua non manca mai a Siviglia, per cui ci sono tutti i presupposti. Ho visto bello carico anche Allegri, per cui sì. dovremmo vedere una partita convincente. Sì, ne abbiamo parlato già in altra sede, ma non qui. Quell'intervista di Allegri a El País, mi riassumi la sua idea, dedicata a Morata più che altro. Sì, dedicata a Morata, definito un giocherellone al quale, diciamo, richiede maggiore killer instinct, cose che secondo Allegri Dybala invece ha già. Io non sono del tutto d'accordo, perché insomma Morata ha trascinato con i suoi gol la Juventus l'anno scorso in Champions, però se lui ha fatto questa intervista a un giornale spagnolo probabilmente aveva anche un suo disegno, un suo piano, vuole mandare un messaggio a Morata. Ieri in conferenza stampa ha fatto un po' marcia indietro rispetto all'intervista e poi ha detto anche chiaramente che adesso tocca Dybala, poi magari però ci sarà un endemico calo di forma o comunque dei cambiamenti e quindi dopo ritoccherà Morata, per cui secondo me lo sta preparando. Vediamo anche stasera se poi questa cosa porta dei risultati o meno. Sì. Però insomma è per me è un'intervista mirata. La giornalista che gli ha fatto è italiana, quindi non c'è nemmeno caso di lost in translation, insomma l'intervista è stata fatta in italiano, per cui non si sarà, cioè, ha voluto dire quelle cose, certo. Pensi anche tu, detto, in conferenza stampa un passo indietro rispetto all'intervista. Sì. Pierluigi, pensi anche tu che Allegri stia giocando con Morata, stia puntando Morata, stia lavorando sulla testa di Morata come ha fatto con Dybala? Guarda, io penso sinceramente che nella vita professionale di qualsiasi persona anche di Filippo Maria Ricci, la mia, la tua, quella di qualsiasi persona in qualsiasi ambito di lavoro, ci sono i momenti in cui ti danno una piccola lezione. Te la danno perché magari anche perché sono stronzi, però te la danno perché di fondo un motivo ci deve essere, e quindi una piccola lezione te la metti. E io credo che sia questo. Morata è chiaramente un grande talento, sicuramente. Sì, senza i gol di questo non arrivano in finale di Champions l'anno scorso. Ma assolutamente. Però voglio dirti, non è la differenza è che nel calcio siamo qui a discutere su Morata col capo ufficio. Non è che nessuno sta lì a dire perché il capo ufficio ti fa uscire un quarto d'ora più tardi o perché ti fa fare quella cosa che non ti va di fare invece di una che ti andava di fare. E di calcio se ne parla perché chiaramente è un argomento di interesse mondiale, però il meccanismo alla fine è lo stesso. Cioè io credo che Allegri stia cercando di tirar fuori da Morata il meglio. Credo che in questo momento gli servisse un giocatore più proletario, più da battaglia, più da domani nella battaglia pensa a me, come direbbe Marias, e basta. E lui è chiaramente un grande talento che si deve dare una svegliatina in questo momento, perché non segna comunque al 4 ottobre, perché comunque no, credo che sia abbastanza normale. Abbastanza normale, penso sia abbastanza normale. E mi ricorda, prima ho citato Capello perché mi è venuto in mente, per esempio, Montella fu clamoroso a Roma nell'anno dello scudetto, no? Era uno che era 57.000 volte più amato di Del Vecchio, veniva considerato molto più talentuoso, lo era probabilmente, però Del Vecchio serviva a quella squadra, e a Capello delle volte serviva che Montella entrasse incazzato come una iena a mezz'ora dalla fine, e alla fine quello che conta è il risultato. Ma sicuramente non è una questione di, cioè, vorrebbe dire considerare proprio stupido uno come Allegri, e non è il caso evidentemente pensare che stia facendo una cosa per maniera preconcetta. La sta facendo perché vuole tirare fuori il meglio da questo giocatore. Ci vediamo un attimo per il traffico. Filippo, stai lì. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. 800240024 per intervenire. Filippo Maria Ricci, Barcellona con ampio turnover all'Everkusen. La Roma dovrà fare da sola, come giusto che sia, prescinde da quello che farà il Barcellona. Real Madrid allenamento con il Malmo, questa è la serata spagnola. Sì, che poi vabbè, vediamo come va col Malmo, come va il Bernabeu, insomma, qui è sempre quella, non si sa mai quello che può succedere. Diciamo in questo momento, in questa situazione, Barcellona sì, un turnover nemmeno poi eccessivo, insomma, comunque è uguale, cioè, la Roma se non batti il Bate non te la puoi prendere con nessuno, mettiamola così, insomma, te la prendi solo con te stesso, e per cui speriamo bene, dai, speriamo. La Juventus è già dentro, speriamo di scaricare anche prima e che passi anche la Roma, insomma, mantenere due squadre è fondamentale. Sì, questo è evidente. Insomma, era quello della Juve era un girone complicatissimo, ne è uscita bene, insomma, ieri Allegri ci ha tenuto a far sapere che rispetto all'anno scorso hanno fatto già un punto in più, mi sembra che abbia ragione. E poi è uscito l'anno scorso, è arrivato secondo ed è uscito indenne, è arrivato fino alla finale, insomma, no? Ha preso Borussia Dortmund e da lì è partita anche un'altra, se vogliamo, un'altra Juventus. No, ma hai ricordato questa cosa del girone complicatissimo, perché bisognerebbe andare a prendersi il giornale del giorno dopo il sorteggio, in cui si diceva giustamente che la Juve era stata sfigatissima, che paradossalmente il girone della Roma, che pure a una fascia inferiore era forse addirittura più facile di quello della Juve, cioè che la Juve era stata veramente sfigata considerata la posizione nel ranking, quindi questo rende ancora più clamoroso il risultato. Ma la Juve ha vinto due volte su due col Manchester City. La Juve ha vinto. Sì, perché però che il Manchester City poi in Europa sappiamo bene che è un po' ho capito, però relativa, però certo. Stiamo parlando della squadra che comunque secondo me rimane favorita per il titolo inglese e che favorita per il titolo inglese, secondo te. Non lo so, ma comunque è una delle tre squadre che stanno lottando per il, quindi cioè, se vogliamo giocare, diciamo che la quinta squadra italiana ha battuto due volte su due è questo, ragazzi, è questo. Ok. Cioè, tolto allora, il Barcellona, prendiamo il Barcellona. No, ma è vera, la verità, io ti dico la verità, tolto il Barcellona, che è una squadra in questo momento ingiocabile, Poi secondo me la Juve anche il Bayern, dai, anche il Bayern, sì, anche il Bayern, va bene, ok, accordato, bien joué. E poi la Juve sta con le... sta con le altre, assolutamente, sta con le altre. Sì, sì, sì. Sta quindi non è che facciamo dubbio. Così schifo, ecco. No, ma no, ma no, infatti ieri, poi ti dico, mi è piaciuto ieri, insomma, Allegri sulla partita di stasera, poi vediamo come la gioca e com'è, però insomma era molto determinato, vuole il suo primo posto, insomma è giusto così, insomma io la Juventus è comunque, ti dico, qua in Spagna è riconosciuta come una potenza europea, cioè la finale non c'è arrivata per caso, insomma non è che è arrivata lì perché non ci arrivi mai per caso, Phil. No, arrivi, no, cioè, anche per turni più semplici, ma esatto, semplici, può esserci e deve esserci la fortuna, devono esserci tante cose, ma non ci arrivi per caso di sicuro. Quindi ti dico che il riconoscimento europeo è presente, cioè, assolutamente, insomma, non è una cosa che, appunto, che ti sei ritrovato così, te lo sei guadagnato e c'è. E Allegri vuole mantenere giustamente questa striscia, insomma. Grazie Phil, alla prossima. A voi, ciao Filippo Valerici. Posso far sentire un paio di Ferrero? Devi. Innanzitutto sentiamo quelli, quello che ha detto a proposito del momentaccio della sua Sampdoria e del cambio Zenga Montella. Quando ho preso Zenga era un coglione. Quando ho preso Montella era un faraone. Ecco. Adesso Montella perde due partite, so di nuovo coglione, mettetevi d'accordo. No. Il calcio, una volta sei leone, una volta sei coglione. Ecco. I cavalli si vedono all'arrivo, esatto. E all'arrivo ci rincontreremo con lei. E questo era su Montella. Posso dire, su questa ragione, cioè non è che è andato a prendere, se non voglio fare altri nomi, non faccio altri nomi, cioè lui è andato a prendere un allenatore top, stimato, top, dove semmai la domanda che alcuni si facevano, ma conviene a Montella andare alla Samp? Di stretta attualità. Questa era la domanda. Quindi, insomma, francamente, adesso prendersela con Ferrero per tre sconfitte fa ridere, insomma, da questo punto di vista. Magari su altre cose uno se la può prendere, però se c'è stato un cambio in panchina dove vai a prendere uno che è una garanzia, è stato quello. Sì, resta la domanda, da che punto di vista era corretto licenziare a Palermo Zenga? È sembrato un azzardo, lo diciamo, ma non senza nulla contro Ballardini, che aveva anche cominciato bene contro Lazio. Beh, è sembrato un azzardo perché comunque prendi un allenatore che era un po' sparito dai radar. A Verona è arrivato tardissimo questo esonero e comunque può essere considerato un azzardo anche per anche quello. Montella è uno che, voglio dire, viene da una serie di stagioni clamorose. Sì, te ne faccio sentire un altro di Ferrero. Ma è iniziato malissimo. Che fa un parallelo tra due mondi, uno che conosce bene e l'altro che ha imparato a conoscere, tra calciatori e attori. Senti come. Vai. I calciatori sono come gli attori, capito? C'hanno tutte svolte seghe mentali, devono essere caricati, devono essere mutati. E magari certi calciatori esplodono dopo 3 anni quando meno te l'aspetti. Capito. Così funziona. Ma ha detto un'altra, poi basta, magari. Sulla cessione ipotetica, cessione della Sampdoria, se ne parla moltissimo. I nomi che circolano li conoscete anche voi. Il più gettonato è quello di Volpi. Ma Ferrero dice: manco po' sogno. Ma si sente di smentire il fatto che Volpi, il patron dello Spezia, possa essere in futuro il presidente della Sampdoria? Allora, questa è una leggenda metropolitana. Perché tutti parlano da Sant'Antonio come la sora Camilla, tutti a olio e nessuno sa la piglia. Io sto signore non lo conosco. Non lo conosce? Non lo conosce. Ci crediamo. Se non lo conosce, non lo conosce. Ci crediamo. Non lo so, non lo so. Non lo so, non mi sono mai occupato dei conti della Samp. Poi leggo anch'io, sento anch'io le voci che fra un po' ritorna Garrone, che arriva Volpi. Poi parliamo. Vediamo. Anche degli altri che hanno in panchina, capitolo allenatori. Però secondo te, chiudendo sulla Sampdoria, c'erano le premesse per licenziare Zenga? Al di là del fatto che non era gradito all'ambiente, che aveva avuto quella pessima figura all'inizio Europa League, tutte queste cose. Dobbiamo ripescare le cose che dicevamo in quelle ore per onestà intellettuale. In quelle ore dicevamo che era un esonero non dovuto alla classifica, perché la classifica della Samp quando è andato via Zenga era una classifica comunque di metà. Ma certamente c'erano nell'ambiente e anche come tendenza, la tendenza non era una tendenza positiva. Certo, da quando è arrivato Montella la tendenza è diventata ancora più negativa, 3 partite, 0 punti, quindi in questo momento ha ragione Gianni Gnocchi che fa, fa vedere i fuochi d'artificio e dice che vengono da casa di Zenga, perché, perché sicuramente in questo momento il cambio in panchina non ha funzionato, ma è quasi banale ripeterlo, così come non ha funzionato quello del Palermo, certo, che mi sembra appunto, ce ne sono degli altri che fanno i fuochi d'artificio in questo, esatto, momento. Poi ne parliamo, state con noi, 800240024 GR, torniamo subito. Ciao mister. Tutti con voi. Tutti convocati. Torniamo, convochiamo tutti, io e Pierluigi Pardo che è qui con me, 800240024 numero verde. Ieri sera, tra l'altro, a Tiki Taka l'allenatore del momento, Roberto Donadoni. Sentiamo cosa ha detto. Sentiamo il signor Donadoni. Signor Donadoni, cosa ha detto sulla, sulla molto partita allegro, eh? Ieri ho visto un Donadoni brillante, era... Beh, insomma, ha riso, ha sorriso, ha fatto battute, grande, sono contento. Sentiamo cosa ha detto a proposito della gara vinta con il Napoli. Quando giochi contro avversari come il Napoli, che hanno grandissima qualità, devi cercare di non solo di limitare loro, e questo l'abbiamo fatto abbastanza bene, ma poi cercare anche di proporre qualcosa in fase offensiva, e forse questa è stata la chiave di volta del, del match, ci ha permesso di andare in vantaggio e poi chiaramente è diventato un po' più semplice. Ha parlato anche di, insomma, del suo grande amore del Milan. È uno dei maggiori rimpianti, credo, in questo momento della tifoseria del Milan, Donadoni, Pierluigi. Sono, io credo siano la stragrande maggioranza, quelli che lo avrebbero voluto, lo vorrebbero sulla panchina del, del Milan. Cosa ha detto sul Milan? Perfetto vedere un Milan così, stop and go, che vince una partita, poi si ferma. È chiaro che da squadre importanti ci si aspetta sempre una certa continuità, e magari anche in una partita come quella di ieri, dove giochi contro una squadra di caratura inferiore, ti aspetti di vincere facilmente, ma il nostro campionato sta insegnando un po' questo, no? L'abbiamo fatto anche noi un po' ieri con il Napoli, e quando non riesci a sbloccare le partite poi tutto diventa complicato. Se avesse fatto un gol probabilmente oggi parleremmo di un Milan diverso. È abbastanza buonista sul Milan, che è molto più stop che go, no? Pier. Sì, soprattutto, insomma, tutte le volte che c'è qualche segnale incoraggiante, come è successo per esempio all'Olimpico contro la Lazio, come è successo contro la Samp, poi puntuale arriva una partita invece, diciamo, di calo del desiderio, chiamiamola così. E che quindi, pressione cosmica, Sì, tipo Carpi Milan e prima ancora Milan Atalanta. Quindi, insomma, mi sembra che io l'ho detto ieri sera, lo ribadisco, penso che il Milan sia in crescita, però questa crescita è lenta, non è certamente a livello delle squadre che stanno davanti, e quindi poi alla fine secondo me il rischio è quello di arrivare in Europa League. Ma secondo te c'è un motivo? Arriva in Europa League il Milan. C'è un motivo per cui Mihajlovic ha rinunciato e rinuncia stabilmente a tutti i giocatori di maggiore personalità, di maggiore garra, da Max Sessa, De Jong. Non lo so, c'è un motivo secondo te? Non lo so, perché Messes secondo me lì in mezzo, ero stato anche preso in giro qualche tempo fa, per quella che è la qualità media della difesa del Milan, è un giocatore che merita delle possibilità, sì. Il tutore emotivo di Romagnoli, esatto. E per quanto riguarda De Jong, certamente non è un giocatore di straordinaria qualità, no, assolutamente. È un lottatore, insomma, ce ne può stare uno. Il problema è che vicino ci vorrebbe tanta qualità. Cioè, secondo me De Jong con due grandi centrocampisti vicino è un signor giocatore, no? Perché è uno che dà la possibilità, con il suo dinamismo e con la sua capacità di battagliare, di dare agli altri una licenza di poter giocare soltanto pensando alla fase offensiva. Non lo so, perché guarda, secondo me nel Milan, se guardiamo fino ad oggi, è stata tutta una serie di tentativi, e francamente, insomma, fino a questo momento non brillantissimi, Alfredo, provincia di Sondrio, buongiorno. Sì, buongiorno, provincia di Sondrio, perché sono in coda. Comunque coda. Non voglio rubare. Ma è ancora nella provincia di Sondrio. È bellissimo, no? Cioè, lei a seconda di dove cambia, è come cambiasse residenza. Giusto, è bellissimo, giusto, è bellissimo. Si adatta alle tendenze. Una cosa rapida, non voglio farvi tornare indietro. Qualcuno di voi ha detto che è stato un azzardo solo il cambio Zenga Montella, giusto? No, è stato io quello che ho detto è che ma voglio spiegare il mio pensiero rapido, poi sì, vi lascio voi discutere. Allora, come giocava Zenga? chiuso e palle lunghe e rapide. Come gioca Montella? Vuol giocare come se fosse ancora Firenze, giusto? Secondo me non ha gli uomini per impostare il calcio da dietro, quindi per me questo è un azzardo. Poi pensate voi, discutete voi. Cosa ne pensi, Pierluigi? Ma penso che della Samp, credo che abbia ragione l'ascoltatore. Sì, credo che abbia ragione, cioè credo che comunque sia però ecco il discorso che facciamo prima sulla difficoltà che c'è in questo momento, secondo me non è una difficoltà che era preventivabile, no? Nel senso che era un cambio che non ci stava molto dal punto di vista della classifica, ma ci stava invece perché la Samp apparentemente stava prendendo un grande allenatore, no? Uh-huh. Che è stato in questi anni un allenatore di altissimo profilo, quindi sembrava quasi più un cambio in prospettiva che legato a un'emergenza, però la realtà è completamente diversa da quello che ci si poteva immaginare. Io saluto un grande allenatore, il nostro amico, come Gianni De Biasi. Come ciao. Va? Ciao, come a va? Tutti. Signor ciao, De Biasi, come va? La preparazione dell'europeo, come va? Stiamo lavorando, Pier. Stiamo lavorando. Stiamo lavorando per hai voi. Scelto il campo? No, bisogna aspettare il sorteggio. Il sorteggio quando è? Fra tre giorni? Il sorteggio è esattamente fra la prossima settimana. Sì. No, prossima settimana corno, questa settimana. Sabato 12. Mamma mia. Senti, dimmi un paio che vorresti evitare. Due, solo due, così. Il tuo gruppo dei sogni? Belgio? Sicuramente, poi potrei cercare di evitare il Portogallo. Belgio e Portogallo, quindi le altre ti vanno bene, comprese corazzate. No, mi va bene, sì, vabbè, non mi va bene. Ma perché il Portogallo? Perché Cristiano Ronaldo? Perché si è battuto in casa nostra. Cioè, ma bello, avete battuto anche perché, loro, scusate, eh? Il Belgio, sì, il Belgio è in prima fascia. Quindi tu, sì, fra Francia, ecco, Spagna, Germania, Inghilterra, Portogallo e Belgio, vuoi evitare Belgio e Portogallo? Sì, ma insomma, vorrei evitarle tutte, sinceramente. Ah. Però mi avete chiesto di evitarne due. Preferisci la Francia? No, perché vorrei dare un morso nel collo a qualcuno del Portogallo, perché perdere in casa con il Portogallo al 92esimo è una certo. Però posso dirti che sei un ingrato, se mi posso permettere, perché al Portogallo è legato l'inizio del viaggio, alla grande vittoria dell'andata, che adesso non lo so perché chiaramente tu hai più sotto mano la situazione, ma per noi che la viviamo da fuori è stato il giorno del Big Bang, il giorno in quale ci siamo resi conto che qua poteva succedere qualcosa di clamoroso, o no? Sì. Tu già lo sapevi. No, assolutamente no, non lo sapeva nessuno, non lo sapevamo neanche noi, non lo sapevo io in primis, perché non sapevo a cosa stavamo andando incontro, e principalmente perché nessuno al mondo ipotizzava la nostra possibile qualificazione per Francia 2016. Questo aspetto interessante. L'Italia, che invece è in seconda fascia con Svizzera, Croazia, Austria, Russia e Ucraina, è quella da evitare della seconda fascia? Sì, anche perché io credo che l'Italia, che è discretamente sottovalutata, una squadra che con Conte riuscirà a tirar fuori il massimo dai giocatori che ha a disposizione, io l'ho preventivata nelle quattro semifinali. Beh, però un derby Italia-Albania, abbiamo già avuto un assaggio quella sera a Genova. Ah sì, in semifinale va bene. Semifinale. Ragazzi, ce l'abbiamo già nelle qualificazioni mondiali. Ah, certo, almeno questo scopo. Okay. Esatto. Senti Gianni, allenatori tema del momento, Garcia che rischia tutto in due partite, quella di domani col Bate e poi quella con il Napoli. Qualcuno dice che Spalletti sia già sull'uscio, ma è un rumor. Mihajlovic che manda segnali strani dicendo aspettate perché il peggio deve ancora arrivare, sono un po' l'argomento del momento, e poi aggiungiamo i cambi di panchina che non stanno funzionando. Ma è sempre brutto per me commentare queste situazioni. Io credo che innanzitutto sono tutte situazioni fine a loro stesse e all'ambiente che stanno vivendo in questo momento, la situazione che stanno vivendo in questo momento. Per Mihajlovic e per dire che può succedere, non è che si può pareggiare 0-0 a Carpi, nel calcio capita anche questo, però nell'ultimo periodo credo che il Milan abbia dato segni di risveglio, nonostante non abbia una delle squadre più forti del campionato, questo da questo punto di vista. E dall'altro lato credo i cambi di panchina possono funzionare, come no, non è la matematica. È chiaro che però il valore intrinseco dell'allenatore, vedi Montella, vedi lo stesso Delneri che avrà grandissima motivazione per andare a prendere il Verona a 6 punti dopo 15 partite, e quindi se l'ha preso è perché è convinto che probabilmente può provare a fare un'impresa eccezionale. Ricordo, ragazzi, che la regina con Mazzarri aveva 17 o 16 punti di penalizzazione, riuscita a salvarsi, quindi nel calcio tutto è possibile, anche se è chiaro che è più facile vincere con una macchina con quattro ruote che con tre sole. No, ma sai cosa mi incuriosisce molto in tutte le vicende di questo periodo? Il fatto che nella maggior parte dei casi Palermo, Carpi, anche la Sampdoria alla prova dei fatti, forse il Verona, non lo so se la storia con Mandorini fosse consumata, però in tutti questi casi certamente, e lo dimostrano le testimonianze di affetto, i tweet e tutte queste cose, la squadra stesse con l'allenatore che è stato mandato via. E poi ne è arrivato un altro e la storia non è riuscita a funzionare. Questo che mi incuriosisce. Eh sì, credo che purtroppo lì ci siano delle divergenze a livello di conduzione da parte dell'allenatore, da parte del presidente o dei dirigenti, o del direttore del momento. Io credo che difficilmente si possa pensare di fare un cambio in situazioni come quelle che ha fatto la Sampdoria, tanto per portare un esempio. Cioè la Sampdoria è una situazione classifica tranquilla, normale, voglio dire. Sì, però appunto lì secondo me hanno avuto la possibilità di prendere Montella, l'hanno preso, no? Sì, lì avevano fatto un investimento per cercare di soffiarlo a qualcun altro che magari in quel momento lì era interessato a Montella, e Montella probabilmente anche per un discorso di legami con il passato suo a Genova ha voluto prendere questa decisione. Quante offerte hai avuto? Le mani oggi, viste? Prego? Dopo la qualificazione, quante offerte hai avuto da club in giro per il mondo? Una sola, molto importante, ma l'ho lasciata andare. E il paese? Solo il paese? Un paese lontanissimo, ma era una cosa molto importante dal punto di vista economico. Ah, ok, sacco dei soldi, ho capito. Guarda che l'aviazione. No, non potevo farlo. Non sei d'accordo con il doppio ruolo, con il CT partagno? Sì, è che non sono molto d'accordo le federazioni, spesso si creano problemi da questo punto di vista. Io credo che si possa fare entrambe le cose, specialmente per una situazione come la nostra, che avevamo già raggiunto il nostro obiettivo. Da qui a giugno non ci sono grandi problemi perché abbiamo solo un turno di amichevoli a marzo, però il resto poteva essere una cosa facilmente gestibile. Ma hai già detto di no, perché se no io e Genta ti possiamo anche dare una mano, cioè... Grazie ragazzi. Se mettermi come ufficio di collocamento proprio hai detto di no, proprio ufficiale. Vuoi che chiamo io, dico... No, non sono andato neanche all'incontro, ma sì. Ma a parte intendeva, ci proponiamo noi, già. Ma no, andiamo, facciamo un lavoro di gruppo, tu ci dici quello che dobbiamo fare, e noi stiamo agli ordini, lì già al dovere, non sgariamo di valido, poi... era una grandissima opportunità sicuramente, appunto. Sulla comunicazione andiamo benino, il problema è come allenare la squadra. Trovarne uno. Vabbè, ve lo faccio suggerire da Tramezzani, che lui sa. Portiamo Tramezzani. Pure Tramezzini portiamo. Il viaggio è lungo, scusate, battuta pessima. Bene, quindi dicevamo, ce la fa la Roma col Bate? È una partita non facilissima, perché per tutto quello che sta vivendo adesso la Roma, credo che abbia il peso e la responsabilità sulle spalle in maniera decisiva. Mi auguro che riescano a fare una partita da Roma vera, dove sanno difendere e contrattaccare velocemente, come si è fatto vedere spesso e volentieri negli anni scorsi la squadra di Garcia. Adesso vediamo su quali giocatori potrà fare affidamento nella partita di domani sera. Senti Gianni, vorrei tornare un attimo sul tema che abbiamo lanciato prima, che mi incuriosiva e che non abbiamo chiuso, cioè il CT part time. Secondo me è possibile, ed è anche una buona soluzione anche dal punto di vista economico, converrebbe anche alle federazioni, è possibile praticamente ovunque salvo che in un paese che è l'Italia, perché te lo immagini, qui il CT part time si porterebbe dietro un sacco di dietrologia, convocato questo perché è suo amico, quello perché è della sua ex squadra, quell'altro perché è lo stesso procuratore. In tutti gli altri paesi secondo me sarebbe una scelta assolutamente ragionevole, ma ci sono stati anche diversi casi in diversi sport di CT part time. Sì, ti dicevo, io credo che almeno nel mio caso sarebbe una cosa possibile, però non è che magari il club che ti che ti mette sotto contratto non è che ha voglia di condividerti con altri, dipende anche da tutte queste situazioni. Io non l'ho neanche preso in considerazione l'aspetto, non l'ho neanche trattata, perché se adesso che me la fai pensare potrebbe essere una delle soluzioni. Però tutto sommato il mio obiettivo oggi è quello di andare a farmi questa esperienza in Francia, dopodiché poi si vedrà. No, ma secondo me è giustissimo cogliere questa opportunità storica. L'ultima cosa, Mourinho, tornando a bomba all'inizio, cioè, a bomba Mourinho. No, ma qui c'è secondo me il caso classico in cui è molto difficile andare avanti in una situazione, cioè quando lo spogliatoio è spaccato, è diviso in metà dei giocatori contro, l'altra metà pure. Questa è la classica situazione, poi guadagna talmente tanti soldi che è difficile di smettere un'azienda. Però questo è il classico caso in cui devi cambiare allenatore, secondo me. Sì, però non è facile perché Mourinho, perché per tutti gli aspetti legati all'aspetto economico, e poi perché tutto sommato io credo che lui si aspetti anche questa soluzione estrema, perché credo che non sia più facile trovare il bandolo della matassa, si è ingarbugliata troppo e sono quelle situazioni che poi diventano difficilmente sanabili anche per uno come lui, che ha grandi qualità dal punto di vista gestionale, dal punto di vista motivazionale, però quando si rompono le situazioni poi è difficile che si ricompongono. Sì, non basta la colla. Grazie Gianni, a presto. Ciao. Ciao a tutti. Nel caso, se puoi, siamo qua, sì. Magari possiamo WhatsApp, fare... No, ma sai, c'era Klinsmann che allenava mica con il tablet, allenava la nazionale statunitense, stando a casa sua, non so, in Germania, a Monaco di Baviera, piuttosto che a Monaco di Monte Carlo. Un bel telefono che funziona per tutti i convocati, fatto bene, bella linea fissa. Io invece vorrei farti sentire un altro paio di battute di quello che rientrerà, cioè Carlo Ancelotti, sempre con Pelegatti. Ha parlato anche di campionato italiano, dicendo cose interessanti. I giocatori della Serie A visti da lontano, diciamo il giocatore straniero che sta facendo meglio, Higuain, che ha portato il Napoli nella prima posizione, sta facendo tantissimi gol, giocando con continuità. Gli italiani ce n'è, cioè, credo che qualche giovane italiano sta venendo fuori, non so, Insigne già è conosciuto, però non so, Baselli del Torino sta facendo un bel campionato, Romagnoli del Milan altrettanto, Bernardeschi ha fatto delle ottime partite con la Fiorentina. E questi i nomi di Ancelotti, Bernardeschi tra l'altro a me piace da morire. Sì, sì, è un giocatore di grande classe. Grande classe, grande corsa, grande sacrificio tattico. No, benissimo, la Fiorentina. Bella cosa. Una meraviglia, bella cosa. Ancelotti ha parlato anche di Sarri e del Napoli. Ah, come ti ho detto, sai che è inimitabile. Perciò Sarri è diverso, però quello che mi piace di Sarri è che a mio parere un allenatore bravo lo vedi dall'identità che riesce a dare a una squadra, e questa, il Napoli ha una precisa identità. Infine su Mancini e l'Inter. La mia opinione è che Mancini è molto bravo e molto capace. L'Inter gioca un calcio atletico, gioca un calcio dinamico, non gioca magari un calcio di qualità come tutti si aspettano. Credo che sta sfruttando al meglio le caratteristiche. Sei d'accordo su tutto, Piero? Sì, sono d'accordo su tutto, nel senso che sull'Inter è evidente che la chiave è soprattutto una chiave fisica, l'abbiamo vista da subito, ma ripeto, non è una diminuzio, anzi è una scelta, e tra l'altro è anche un po' sorprendente, perché in realtà non mi ricordo chi lo diceva l'altro giorno, ma credo nel prepartita di Premium qualche opinionista, in effetti all'inizio della stagione, con tutto il talento offensivo che comunque l'Inter è riuscita a costruire, c'era l'idea che potesse essere una squadra capace di grandi slanci offensivi. Invece in realtà ha preso un'altra strada che fin qui è assolutamente virtuosa, assolutamente vincente, che è quella di una squadra molto, molto attenta, blindata, blindatissima, coperta, e quindi non era esattamente esatto, non era una cosa così facilmente immaginabile secondo me alla vigilia del campionato. Posso chiedere due cose? Sì. Innanzitutto, che centravanti regaleresti all'Inter come caratteristica? Mi sembra evidente che Icardi non funziona, almeno in questo momento, però non mi sembra neanche il giocatore giusto per quel tipo di gioco. Regalerei Icardi. Regalerei Icardi, che è il capocannoniere della passata stagione. Appunto. va recuperato e tornerà insomma. Devo dire la verità che appunto proprio perché la squadra sarà molto diversa rispetto a quella che potevamo immaginare all'inizio della stagione, quindi una squadra più solida ma con meno ispirazione offensiva, è chiaro che anche Icardi ha avuto meno palloni, poi ci ha messo del suo, poi sicuramente la partita di Napoli non ha fatto piacere al professor Mancini e l'ha fatto capire bene in conferenza stampa, però insomma io regalerei Icardi, nel senso sì, regalerei un Icardi recuperato. Ho sentito che gli si è regalato uno skybox a San Siro. Sì. Cioè i biglietti glieli danno, cioè, non è che lo facevano pagare per portare a sua famiglia come succede per tutti però, i giocatori, però 200.000 e si è preso uno skybox personalizzato. È grande serenità, un po' come la macchina che ho visto l'altro giorno. Pochi sì. minuti prima dell'aggressione, fra l'altro, perché sì. Vive di eccessi, ma non gli è regolare, tutto sommato, anche, non dispiace. No, anche, questo... anche se lo skybox a San Siro mi sembra veramente una follia. Vabbè, a me sembra una follia, non posso dire. Famiglie numerose. Ma che famiglie, cioè, ti danno i biglietti, ripeto, ti mandano in tribuna, ti siedi comodo, lì vicino alle Modena 2-0 sul Bari, Novara in vantaggio a Perugia. Le notizie della serie, attenzione, ha segnato Scoguggia. Dunque, vi ricordate Scoguggia, te lo ricordi? No. Attenzione, no. Intervengo per segnalare. Ti lascio anche i marcatori se riesco. Ecco, vai tu, intanto temporeggia. No, voglio chiudere. No, ma te 10 secondi. No, io ce li prendo qua. Live score. Posso anche temporeggiare. Live score, risultati. Al volo. Live score. Snap. Perché la B gioca sempre. Sì. Gioca a qualsiasi ora del giorno e della notte. Poi oggi è l'8 dicembre. Allora, attenzione, Lascoli in vantaggio 1-0. Ha segnato Catturano. Poi Modena 2-0 sul Bari con Nardini e Granoce. E poi Novara si è portato in vantaggio col gol di Corazza. 1-0 a Perugia, Renato Curi. Aspettiamo domani, Pierluigi. A te, gente. Io chiudo, restituisco la linea allo studio di Roma. Sì, o quello di Milano. All'undecimo. O quello di Milano. Grande Alfredo Provenzali, che fa lo stesso. Mandiamo un bacio lassù. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Arrivederci, ragazzi. Ciao.